Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione al nostro ospite, Simone Piva. Allora, sono 98.6 per la bassa veronese, zona della Lessinia, e 101.5 per Verona, città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Val d'Adige. Radio RCS si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Rimanendo in America, ma con un salto in Gran Bretagna, passiamo ad una parte in cui ascolteremo band e artisti degli anni 70, precursori della scena punk alternativa dei giorni nostri. Prima canzone dagli Stooges di Iggy Pop, dal titolo Down on the Street, inserita nel disco Fun House degli Stooges del 1970, band seminale per il suono selvaggio del rock and roll moderno che all'epoca fece scalpore per le esibizioni oltre il limite. Cosa ne pensi? Penso, per fortuna siano esistite queste band qua, perché ci sono ancora comunque, anzi, no, ci sono verranno ancora in Italia. E vive Veget soprattutto, e dobbiamo solo ringraziare noi rocker che ci siano stati appunto loro, per quello che ci hanno dato, lasciato e quello che possiamo imparare. Ci vuole fegato per vivere è il titolo del vostro disco. Quale significato avete voluto dare a queste parole, fermo restando che è comunque molto esplicito? Ma ripeto, stiamo vivendo dei tempi duri e questi tempi naturalmente rimarranno epocali, e noi ci siamo tutti dentro. I nostri padri, i nostri nonni, io la dico così, hanno mangiato tutto, si sono presi tutto. Aia. Noi non c'è speranza, insomma. No, io invece ho una grossa speranza, però sicuramente ci vuole fegato per vivere. Ecco, vedi. Nel 1972 si consuma lo scioglimento degli MC5, feroce band di Detroit che aveva infiammato i palchi d'America con le sue trascinanti esibizioni. Le loro ultime registrazioni effettuate in Francia hanno prodotto pochi inediti brani, tra cui questa Thunder Express. Oh, Ancora attivi, anche se ormai decimati, gli MC5 ci dimostrano quanto fossero avanti con i tempi. Che ne pensi? Penso che sono tra i miei gruppi preferiti e che ho sempre nello stereo. Vostri ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano le vostre canzoni? Ma i nostri ascolti sono diversi. Io amo moltissimo il cantautorato italiano e americano, mentre il bassista Christian De Franceschi appunto ascolta moltissimo stoner e vari generi, e il batterista Omar Della Morte sente, diciamo, gli piace moltissimo la techno, dance, l'elettronica, queste cose qua. Strano per un batterista. Ma è stato un DJ lui prima, quindi ha questi ritorni. Lo avete convertito, insomma, ecco. Ma diciamo che si è convertito da solo, però ha questi ritorni che vanno bene, ecco. Vediamolo dalla seconda parte con un salto in Gran Bretagna con Screaming Lot Sutch, personaggio davvero fuori dal comune che amava entrare sul palco dentro di una bara. Esordì nel 1970 con Lord Sutch and Heavy Friends, disco registrato assieme a grandi nomi del rock come Noel Redding, John Bonham, Jimmy Page e tanti altri. Ci sentiamo da quel lavoro il brano Cause I Love You. Nella terza e quarta parte ascolteremo 6 brani del disco di Simone Piva e Viola Velluto, Ci vuole fegato per vivere. Stay tuned. I love you.